edizione. Sono le 6, 18 minuti e 55 secondi. Allora, vediamo che cosa troviamo sui quotidiani, sui principali quotidiani oggi in edicola. Allora, gran parte dei quotidiani appunto dedica l'apertura, insomma il titolo principale quantomeno, al lavoro. Si differenzia un po' il Corriere della Sera oggi, che apre con la vicenda di Tolosa, il killer che angoscia la Francia, il titolo. Strage alla scuola ebraica, la pista del neonazismo, e affida la firma dei commenti a Pierluigi, affida i commenti alle firme di Bernard Henri Lévy, quei tre bambini e chi siamo noi, e poi a Pierluigi Battista, e ogni volta diciamo mai più. Dal Corriere della Sera segnaliamo anche un titolo che riguarda il fisco, così cambierà il fisco, un super fondo per ridurre le tasse, risorse non solo dalla lotta all'evasione. E poi sulla vicenda di Tolosa però da segnalare che viene messa in evidenza quella che potrebbe essere la pista più probabile. Si parla di questa pista neonazista con tutte le probabilità. Si mette una foto di tre persone con il braccio destro alzato e avvolti in una bandiera con una svastica. Ebbene, ci sono i primi ricercati, sono tre paracadutisti commilitoni dei soldati uccisi nei giorni scorsi, che erano stati espulsi dall'esercito francese dopo una ignobile foto, che è quella che si vede in prima pagina sul Corriere della Sera, avvolti nella bandiera con la svastica, braccio teso nel saluto nazista, i crani rasati. Naturalmente c'è anche un titolo dedicato al mercato del lavoro e anche un commento di Francesco Giavazzi. Come sapete, da qualche giorno c'è una sorta di polemica a distanza tra il presidente del Consiglio Mario Monti e uno degli editorialisti economici del Corriere della Sera, che si rivolge di nuovo al presidente del Consiglio con un commento dal titolo Domande senza risposta. Sempre dal Corriere della Sera, una storia da segnalare, perché è una bella storia, è quella di Vernazza, paese delle Cinque Terre. Il pezzo lo firma Marco Imarisio. Il paese delle Cinque Terre è ripulito dai suoi abitanti dopo l'alluvione di ottobre. Vernazza rinasce, questo è il titolo, senza aiuti pubblici. Sul lavoro prendiamo l'apertura di Repubblica, che è Napolitano, lavoro, serve l'accordo, oggi vertice sull'articolo 18, dall'IRI alla Green Tax, ecco il nuovo fisco, quindi anche qua si parla di fisco, riunione notturna senza intesa tra Fornero, CGIL, CISL e UIL, nel piano del governo più facile, il licenziamento individuale. Altra vicenda che troviamo in prima pagina su quasi tutti i quotidiani, ma con particolare forza sulla Repubblica, che la mette di taglio centrale. Pirelloni indagato il fratello di La Russa, me ne abbiamo parlato nel giornale radio poco fa. Inchiesta sugli appalti per le case popolari, è il decimo inquisito in regione. Naturalmente anche grande foto e titolo dedicato alla vicenda di Tolosa. Due storie interessanti. La prima è firmata da Anais Ginori ed è una storia che riguarda il modello svedese. Che cosa è successo? Il modello svedese si mette il brevetto, ossia il centrosinistra svedese, che evidentemente ha come dire, anche qualche difficoltà da questo lato, ha voluto mettere il brevetto e ha avuto ragione sull'espressione modello nordico, per indicare appunto quel modello sociale di flex security, affinché il centrodestra non lo possa usare nelle elezioni e in campagna elettorale. Questa più o meno la sostanza, naturalmente la storia è un po' più approfondita. Sempre da Repubblica, vi vogliamo segnalare la vicenda che racconta invece Giampaolo Cadalanu e riguarda il periodo dell'attacco della NATO in Libia. Morivamo in mare e il titolo e la NATO stava a guardare. Ci sono le virgolette, il racconto è evidentemente di alcuni rifugiati. Proteggere i civili era lo scopo dell'intervento NATO in Libia secondo la risoluzione 1973 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Eppure le navi dell'Alleanza Atlantica hanno scientemente evitato di soccorrere una barca piena di civili in fuga dalla Jamahiriya, abbandonandoli al sole e al Mediterraneo fino a quando le onde li hanno spinti di nuovo sulle coste libiche. Questo il racconto che troviamo sulla Repubblica. Il Messaggero, che anche il Messaggero apre sul lavoro grave se non c'è accordo, questo è il titolo principale, e parla naturalmente del monito di Napolitano. Riporta anche un titolo dedicato al fisco, e qua si affronta un aspetto diverso: in arrivo la delega fiscale, il nuovo catasto a costo zero, riforma del catasto, lotta all'evasione, riordino della tassazione su imprese e professionisti. Come sempre il Messaggero dedica, quando giocano, un titolo alle squadre romane, e il titolo naturalmente in questo caso è sulla Roma, che ha giocato ieri, come vi abbiamo raccontato poco fa. La Roma risale in zona Champions, questo il titolo. Basta poco nella notte dell'Olimpico per rivedere la zona Champions. La Roma efficace e pratica supera 1-0 al Genoa, il Genoa, e si avvicina al terzo posto. Da segnalare un'altra storia, un ricordo di Vincenzo Cerami, che il titolo è Pasolini, il professore a Ciampino a cui non passavamo la palla, e racconta Vincenzo Cerami di aver avuto Pierpaolo Pasolini come insegnante di lettere alle scuole medie dalla prima al secondo trimestre della terza, quando venne a sostituirlo il cugino Nico Naldini, anche lui poeta. Questo il racconto di Cerami. Il Sole 24 Ore apre sulle pensioni dopo la giornata di ieri, la giornata di tutto pensioni. Pensioni, si riapre la partita per 350.000, e sul costo delle ricongiunzioni la soluzione è lontana, come vi abbiamo detto poco fa. Ampio spazio a questo e alla riforma del mercato del lavoro. Napolitano, sul lavoro grave un no all'intesa, trattativa in salita, scrive il Sole 24 Ore. Ci sono domande e risposte, dai sussidi all'apprendistato, un vademecum per orientarsi, e sulla flessibilità in entrata scrive Nicoletta Picchio, 8 posti su 10 con i nuovi contratti. L'editoriale di prima pagina è a firma di Guido Gentili, si intitola Va sotto la testatina l'agenda del governo, e dice: lavoro e previdenza, l'1-2 obbligato, insomma, senza, fatta la riforma delle pensioni, non può mancare quella del lavoro, questo è il concetto. Altri due titoli interessanti che troviamo sul Sole 24 Ore di oggi: il primo riguarda il BTP Italia, quello per il mercato, quello acquistabile dai semplici consumatori direttamente, esordio boom, e lo spread a quota 278, e anche una vicenda altrettanto interessante, e che curiosamente non troviamo in prima pagina su altri quotidiani: la svolta per Apple, il primo dividendo da 17 anni e acquisizione in vista, perché come forse saprete se seguite tanto le vicende di Apple quanto le vicende dei mercati, è un'azienda che ha in cassa una liquidità pazzesca, si parla di 100 miliardi di dollari. Veniamo alla Stampa. Oltre all'apertura sul lavoro, alla vicenda di Tolosa, due storie. La prima arriva da Torino ed è veramente una storia terribile, di una donna che aveva perso un figlio, aveva perso due figli in due parti precedenti. Ebbene, che cosa è successo? Che i medici hanno insistito per il parto naturale con la terza gravidanza, nonostante lei chiedesse che le facessero il cesareo. A quanto pare non riusciva ad uscire questo bambino. Ebbene, adesso il bambino rischia, perché è andato in asfissia e ha dei danni cerebrali, una vicenda sulla quale evidentemente bisognerà capirne di più nel corso dei prossimi giorni. E l'altra storia: all'asta i volantini delle Brigate Rosse, anche la condanna di Moro, polemica per la messa in vendita dei ciclostilati dei terroristi. Prima di chiudere, un paio di segnalazioni dai quotidiani internazionali. Una dall'America: il New York Times pubblica una simulazione di guerra fatta dagli Stati Uniti, che ipotizza un attacco all'Iran, ipotizza che l'Iran spedisca un missile su una portaereo, su una nave americana, e uccida 200 soldati, e l'America sia costretta a rispondere. Ebbene, l'ipotesi, la proiezione di guerra porta ad una guerra su più larga scala, con molti morti americani e un rallentamento di appena 2 anni del programma nucleare iraniano. Quindi con non molto semplice la cosa. L'altra storia che vi vogliamo segnalare, l'altra vicenda che vi vogliamo segnalare arriva dall'Independent, perché si è parlato molto del problema del credito delle piccole imprese, piccole e medie imprese italiane. Ebbene, il cancelliere dello scacchiere, ossia il ministro all'economia, chiamiamolo così, inglese, ha una bella idea che a quanto pare presenterà oggi. Prevede prestiti a tassi agevolati per le piccole imprese garantiti dallo Stato. Le banche che accetteranno di partecipare concederanno prestiti a tassi inferiori dell'1% a quelli che praticano normalmente. Prima edizione. Sono le 6:37 minuti e 39 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia, il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. Una buona mattina a tutti da Daniele Biacchessi, oggi è il 20 marzo e va ad iniziare Italia in controluce. Dai rischi di nuove più aspre violenze alle infiltrazioni della mafia sui cantieri della Valsusa, anche di alta velocità, ha parlato Raffaella Calandra nell'intervista al ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri. Ecco un estratto. Lo TAV significa tante cose, ci possono anche essere anche delle ideologie dietro le quali si possono nascondere anche fenomeni avversivi, perché possono prendere degli sviluppi e delle forme che vanno molto al di là della semplice protesta ambientale o della protesta dei valligiani. Ormai è diventato un po' un simbolo, no? Era come il simbolo contro le centrali nucleari, adesso c'è il simbolo TAV, un filone molto delicato perché si è caricato di significati ideologici che vanno molto al di là della TAV per quello che rappresenta o per il tipo di lavoro che poi si farà, una quantità ridottissima in galleria, quindi non è quel mostro che viene vissuto, ma viene vissuto come un fenomeno di una situazione anche particolare e per cui diventa l'oggetto e il segnale di tutta una serie di malesseri. Sulla TAV e tutti i gruppi sociali eccetera hanno messo le loro attenzioni. Io sono convinta però che parlando, e questo lo stanno facendo, ascoltando le popolazioni, cercando di comprendere le ragioni delle popolazioni, perché in tutte le cose c'è sempre una ragione. Alla fine chi non è direttamente interessato o chi non ha uno specifico motivo verrà isolato, perché comunque saranno manifestazioni un po' come le manifestazioni che si sono avute per il G8, per il G20, cioè sono segni di malessere di una società moderna che a volte vede degli obiettivi per manifestare un dissenso, diciamo. È importante riuscire a distinguere questo da quelle che sono le naturali, le giuste proteste. Si è parlato anche, dopo un allarme denunciato da Saviano, di un rischio infiltrazioni della malavita sulle grandi opere del NOTAV. Ha toccato un tasto giustissimo, perché Saviano fa notare che ogni operazione in cui ci sono appalti potrebbe essere un'operazione in cui poi si incida la criminalità organizzata. Un rischio ricorrente su tutte le grandi opere, abbiamo visto per l'Expo, sì, la TAV. Sì. Ecco. Però non è che noi non stiamo occupandocene di queste cose, tant'è vero che sia per l'Expo che per la TAV sono operativi dei protocolli di legalità che vanno a vedere gli appalti, anche degli appalti sotto soglia. Andiamo a vedere il movimento del denaro che c'è intorno a queste grandi opere, con controlli mirati, di più forze che intervengono sul territorio, quindi è un'attività molto articolata e molto complessa, che ha già dato nelle grandi opere che abbiamo seguito degli ottimi risultati, ma saremo ancora più precisi e ancora più bravi. Bisogna attrezzarsi e andare avanti, perché guai se ci fermassimo per paura. Italia in controluce, torniamo oggi alle 13:30 su Radio 24. Sono le 6:41 minuti e 18 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Allora facciamo il punto su questa giornata importante per la riforma del mercato del lavoro, perché insomma c'è questo incontro che dovrebbe essere decisivo con il Presidente del Consiglio Mario Monti, tra il Presidente del Consiglio Mario Monti e le parti sociali. Ieri vertice, allora vediamo di raccontare la serata di ieri e che cosa ci aspetta oggi con la nostra Valentina Furlanetto. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno a te Simone e agli ascoltatori. Come dicevi, è una giornata davvero decisiva quella che si va ad aprire, che porta avanti una maratona iniziata, come giustamente dicevi già ieri, poco prima di mezzanotte. Della mezzanotte è finito il vertice tra i ministri del lavoro, Elsa Fornero, il segretario generale della CGIL Susanna Camusso, della CISL Raffaele Bonanni, della UIL Luigi Angeletti e dell'UGL Giovanni Centrella. Il confronto è durato poco più di 3 ore e si riparte appunto stamattina con un incontro informale che sarebbe previsto, a quanto si apprende, intorno alle 8.30 a Palazzo Chigi, in vista del tavolo, quello sì formale, convocato per le 15.30. Insomma, una maratona con l'intenzione di chiudere entro domani. E intanto è pressing da parte del Presidente della Repubblica Napolitano. Sentiamo cosa ha detto. I problemi che sono dinanzi al mondo del lavoro e alle giovani generazioni. Penso che sarebbe grave la mancanza di un accordo cui le parti sociali diano solidalmente il loro contributo. Sarebbe grave, ha detto Napolitano, e la volontà di una riforma condivisa è chiara anche dalle parole del ministro Fornero. Io ho sempre sostenuto che il mio impegno è massimo perché si raggiunga una intesa. Io credo con molta sincerità che la riforma raggiunta con il consenso delle parti sociali abbia un valore aggiunto, che la stessa riforma approvata senza il consenso delle parti sociali non ha. Insomma, il governo andrà avanti comunque lo stesso, hanno fatto sapere da fonti appunto del Ministero del Lavoro, però il consenso avrebbe con il consenso avrebbe un valore in più, ha detto Fornero. Ieri sera i temi toccati sono stati quelli degli ammortizzatori sociali, dell'ordinamento dei contratti, mentre non sarebbe stato approfondito il tema della flessibilità in uscita e quindi il nodo dell'articolo 18. Ma sentiamo cosa ha detto Bonanni in tarda serata a Linea Notte del TG3. Noi stiamo discutendo, e anche bene, tra di noi, e abbiamo affinato anche delle proposte che noi domani metteremo in campo, e credo che ci sono più accordi che disaccordi tra di noi. Io devo essere ottimista perché lo vedo che anche nell'ambiente politico c'è abbastanza volontà e ottimismo. Dobbiamo darci una mano tra di noi, diversamente abbandoniamo agli estremismi questa partita così delicata. Insomma, avete sentito, Bonanni ostenta sicurezza e ottimismo, ma il nodo chiaramente è quello dell'articolo 18 ed è quello in particolare dei licenziamenti disciplinari, anche prevedendo la possibilità che sia il giudice a decidere tra reintegro e indennizzo. Bonanni propone che in questo caso si alzi l'asticella dell'indennizzo e si specifichino le causali nel contratto. La CGIL non la ritiene accettabile, ribadisce di essere disposta al massimo a mediare sulla possibilità che nei soli licenziamenti economici si lascia al giudice il potere discrezionale. La UIL, disponibile a intervenire sui licenziamenti economici, ha detto che i licenziamenti disciplinari non si toccano. Il percorso quindi è stretto. Va ad aggiungere tensione il fatto che ieri si è riunito il comitato centrale della FIOM, che ha proclamato almeno 2 ore di sciopero da oggi a difesa dell'articolo 18 e ha chiesto che qualsiasi accordo venga raggiunto sulla riforma sia sottoposto al referendum. Si riparte alle 8.30, insomma, cercheremo di aggiornarvi, Simone, con tutto quello che accadrà. E grazie Valentina già per questi di aggiornamenti e naturalmente appunto attesa per la giornata. Ve lo ricordiamo, alle 8.30 questo vertice informale, poi alle 15.30 il momento veramente decisivo. Prima edizione. Le 6, 47 minuti e 32 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Come si diceva, andiamo a sentire che cosa è successo questa mattina in India per quanto riguarda la vicenda correlata a quella dei due marò italiani, dei due soldati italiani che sono là detenuti. Adriana Fracchia, buongiorno. Sì, buongiorno. Al termine di un'inchiesta preliminare sull'uccisione di due pescatori indiani, un ministero del Kerala ha dato il via libera alla partenza della petroliera Enrica Lexi, ancora bloccata da un mese, lo ricordiamo, al largo del porto di Coci con a bordo equipaggio ed altri 4 marò. Lo si legge in un rapporto che è stato presentato dal Dipartimento della Marina Mercantile e depositato all'Alta Corte del Kerala. Secondo la stampa indiana sono state raccolte tutte le prove a bordo della nave. Ciò nonostante, la partenza dell'imbarcazione sarebbe comunque ancora subordinata alla condizione che il capitano e i di Maro compaiano davanti ad un'autorità competente o ad un tribunale nel caso in cui si rendano necessari ulteriori accertamenti. E oggi intanto prosegue l'udienza su ricorso italiano all'Alta Corte del Kerala, mentre i due marò italiani accusati di aver ucciso oltre un mese fa due pescatori indiani scambiandoli per pirati resteranno invece in carcere ancora per altri 14 giorni. Per ora, infatti, la domanda di un trasferimento in una guest house non è stata ancora soddisfatta. Dopo un'udienza di 15 minuti, il giudice del tribunale di Kollam ha esteso infatti di altre 2 settimane i termini di custodia cautelare. In particolare si attendono ancora i risultati della perizia balistica, sulla quale però la difesa ha sollevato alcune perplessità procedurali. E grazie dunque alla nostra Adriana Fracchia. Nel frattempo un brevissimo aggiornamento che vi do io sempre da una vicenda indiana sui due italiani rapiti, Paolo Bosusco e Claudio Colangelo. Ebbene, è arrivata notizia dai ribelli maoisti che stanno bene e ricevono regolarmente cibo. I maoisti hanno presentato le loro condizioni, sono 13 condizioni come si diceva, e hanno anche annunciato un cessate il fuoco. Vedremo che cosa succederà da questo lato, un nuovo ultimatum che scade questa sera. Un ringraziamento come sempre a Peter Bescapè in regia, a Viola Bottoni in redazione. Grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Noi ci risentiamo tra poco con le notizie e gli aggiornamenti del GR. A tra poco.